Riceveremo scarpe e vestiti. No, non i nostri. Altre scarpe, altri vestiti. Ora siamo nudi perché aspettiamo la doccia e la disinfezione, le quali avranno luogo subito dopo la sveglia, perché in campo non si entra se non si fa la disinfezione. Certo, ci sarà da lavorare. Tutti qui devono lavorare. Ma c'è lavoro e lavoro. Lui, per esempio, fa il medico. È un medico ungherese che ha studiato in Italia. È il dentista del Lager. È in Lager da 4 anni, non in questo. La Buna esiste da 1 anno e mezzo soltanto. Eppure, possiamo vederlo. Sta bene. Non è molto magro. Perché è in Lager? È ebreo come noi? No, dice lui con semplicità. Io sono un criminale. Noi gli facciamo molte domande. Lui qualche volta ride, risponde ad alcune e non ad altre. Si vede bene che evita certi argomenti. Delle donne non parla. Dice che stanno bene, che presto le rivedremo, ma non dice né come né dove. Invece ci racconta altro, cose strane e folli. Forse anche lui si fa gioco di noi. Forse è matto. In Lager si diventa matti. Dice che tutte le domeniche ci sono concerti e partite di calcio. Dice che chi tira bene di box può diventare cuoco. Dice che chi lavora bene riceve buoni premio con cui ci si può comprare tabacco e sapone. Dice che veramente l'acqua non è potabile e che invece ogni giorno si distribuisce un surrogato di caffè, ma generalmente nessuno lo beve perché la zuppa stessa è acquosa quanto basta per soddisfare la sete. Noi lo preghiamo di procurarci qualcosa da bere, ma lui dice che non può, che è venuto a vederci di nascosto, contro il divieto dell'SS, perché noi siamo ancora da disinfettare e deve andarsene subito. È venuto perché gli sono simpatici gli italiani e perché, dice, ha un po' di cuore. Noi gli chiediamo ancora se ci sono altri italiani in campo e lui dice che ce n'è qualcuno, pochi, non sa quanti, e subito cambia discorso. In quel mentre ha suonato una campana e lui è subito fuggito e ci ha lasciati attoniti e sconcertati. Qualcuno si sente rinfrancato. Io no. Io continuo a pensare che anche questo dentista, questo individuo incomprensibile, ha voluto divertirsi a nostre spese e non voglio credere una parola di quanto ha detto. Alla campana si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce. 5 minuti di beatitudine. Ma subito dopo irrompono 4, forse sono i barbieri, che bagnati e fumanti ci cacciano con urla e spintoni nella camera attigua, che è gelida. Qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci schiaccia in mano un paio di scarpacce a suola di legno. Non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto, sulla neve azzurra e gelida dell'alba. E scalzi e nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un'altra baracca, a un centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro. Non c'è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in 100 visi lividi, in 100 pupazzi miserabili e sordidi. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. Allora, per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno, e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome, e se vorremmo conservarlo dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Consideri ognuno quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane, nei 100 oggetti nostri che il più umile mendicante possiede: un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come membra del nostro corpo. Né è pensabile venirne privati nel nostro mondo, che subito ne ritroveremmo altri a sostituire i vecchi, altri oggetti che sono nostri in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengono tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso. Tale quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana, nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento, e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. Häftling. Ho imparato che io sono uno Häftling. Il mio nome è 174517. Siamo stati battezzati. Porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro. L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Ci hanno messi tutti in fila e ad uno, secondo l'ordine alfabetico dei nostri nomi, siamo passati davanti a un abile funzionario munito di una specie di punteruolo dal lago cortissimo. Pare che questa sia l'iniziazione vera e propria. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Sono occorsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente, in modo da non intralciare le quotidiane operazioni annonarie di distribuzione. Ci sono voluti settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca, e per molti giorni, quando l'abitudine dei giorni liberi mi spinge a cercare l'ora sull'orologio a polso, mi appare invece ironicamente il mio nuovo nome, il numero tra punto e insegne azzurrognoli sotto l'epidermide. Solo molto più tardi, e a poco, alcuni di noi hanno poi imparato qualcosa della funerea scienza dei numeri di Auschwitz, in cui si compendiano le tappe della distruzione dell'ebraismo d'Europa. Ai vecchi del campo il numero dice tutto: l'epoca d'ingresso al campo, il convoglio di cui si faceva parte e di conseguenza la nazionalità. Ognuno tratterà con rispetto i numeri dal 30.000 all'80.000. Non sono più che qualche centinaio e contrassegnano i pochi superstiti dei ghetti polacchi. Conviene aprire bene gli occhi quando si entra in relazioni commerciali con un 116.000 o 117.000. Sono ridotti ormai a una quarantina, ma si tratta dei greci di Salonicco, non bisogna lasciarsi mettere nel sacco. Quanto ai numeri grossi, essi comportano una nota di essenziale comicità, come avviene per i termini matricola o coscritto nella vita normale. Il grosso numero tipico è un individuo panciuto, docile e scemo, a cui puoi far credere che all'infermeria distribuiscono scarpe di cuoio per individui dai piedi delicati e convincerlo a corrervi e a lasciarti la sua gamella di zuppa in custodia. Gli puoi vendere un cucchiaio per 3 razioni di pane, lo puoi mandare dal più feroce dei capos a chiedergli, è successo a me, se è vero che il suo è il Kartoffelschell Kommando, il comando pelatura patate, e se è possibile esservi arruolati. D'altronde, l'intero processo di inserimento in quest'ordine per noi nuovo avviene in chiave grottesca e sarcastica. Finita l'operazione di tatuaggio, ci hanno chiusi in una baracca dove non c'è nessuno. Le cuccette sono rifatte, ma ci hanno severamente proibito di toccarle e di sedervi sopra. Così ci aggiriamo senza scopo per metà della giornata, nel breve spazio disponibile, ancora tormentati dalla sete furiosa del viaggio. Poi la porta si è aperta ed è entrato un ragazzo dal vestito a righe, dall'aria abbastanza civile, piccolo, magro e biondo. Questo parla francese e gli siamo addosso in molti, tempestandolo di tutte le domande che finora ci siamo rivolti l'un l'altro inutilmente. Ma non parla volentieri. Nessuno qui parla volentieri. Siamo nuovi, non abbiamo niente e non sappiamo niente. A che scopo perdere tempo con noi? Ci spiega di malavoglia che tutti gli altri sono fuori a lavorare e torneranno a sera. Lui è uscito stamane dall'infermeria, per oggi è esente dal lavoro. Io gli ho chiesto, con un'ingenuità che solo pochi giorni dopo già doveva parermi favolosa, se ci avrebbero restituito almeno gli spazzolini da denti. Lui non ha riso, ma col viso atteggiato a intenso disprezzo mi ha gettato «Vous n'êtes pas à la maison». Ed è questo il ritornello che da tutti ci sentiamo ripetere. Non siete più a casa. Questo non è un sanatorio, di cui non si esce che per il camino. Cosa vorrà dire? Lo impareremo bene più tardi. E infatti, spinto dalla sete, ho adocchiato fuori di una finestra un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande e grosso che si aggirava là fuori e me lo ha strappato brutalmente. «Warum?» gli ho chiesto nel mio povero tedesco. «Hier ist kein warum!» «Qui non c'è perché», mi ha risposto, ricacciandomi dentro con uno spintone. La spiegazione è ripugnante, ma semplice. In questo luogo è proibito tutto, non già per riposte ragioni, ma perché a tale scopo il campo è stato creato. Se vorremmo viverci, bisognerà capirlo presto e bene. Qui non ha luogo il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio. Ora dopo ora, questa prima lunghissima giornata di anti-inferno volge al termine. Mentre il sole tramonta in un vortice di truci nubi sanguigne, ci fanno finalmente uscire dalla baracca. Ci daranno da bere? No. Ci mettono ancora una volta in fila. Ci conducono in un vasto piazzale che occupa il centro del campo e ci dispongono meticolosamente in quadrati. Poi non accade più nulla per un'altra ora. Sembra che si aspetti qualcuno. Una fanfara incomincia a suonare, accanto alla porta del campo. Suona Rosamunda, la ben nota canzonetta sentimentale, e questo ci appare talmente strano che ci guardiamo l'un l'altro sogghignando. Nasce in noi un'ombra di sollievo. Forse tutte queste cerimonie non costituiscono che una colossale buffonata di gusto teutonico. Ma la fanfara, finita Rosamunda, continua a suonare altre marce, una dopo l'altra, ed ecco apparire i drappelli dei nostri compagni, che ritornano dal lavoro. Camminano in colonna per cinque. Camminano con un'andatura strana, innaturale, dura, come fantocci rigidi fatti solo di ossa, ma camminano seguendo scrupolosamente il tempo della fanfara. Anche loro si dispongono come noi, secondo un ordine minuzioso nella vasta piazza. Quando l'ultimo drappello è rientrato, ci contano e ci ricontano per più di un'ora. Avvengono lunghi controlli che sembrano tutti fare capo a un tale vestito a righe, il quale ne rende conto a un gruppetto di SS in pieno assetto di guerra. Finalmente, è ormai buio ma il campo è fortemente illuminato da fanali e riflettori, si sente gridare «Absperre!», al che tutte le squadre si disfano in un viavai confuso e turbolento. Adesso non camminano più rigidi e impettiti come prima, ciascuno si trascina con sforzo evidente. Noto che tutti portano in mano o appesa alla cintura una scodella di lamiera grande quasi come un catino. Anche noi nuovi arrivati ci aggiriamo tra la folla, alla ricerca di una voce, di un viso amico, di una guida. Contro la parete di legno di una baracca stanno seduti a terra due ragazzi. Sembrano giovanissimi, sui 16 anni al massimo. Tutti e due hanno il viso e le mani sporche di fuliggine. Uno dei due, mentre passiamo, mi chiama e mi pone in tedesco alcune domande che non capisco. Poi mi chiede da dove veniamo. Italien, rispondo. Vorrei domandargli molte cose, ma il mio frasario tedesco è limitatissimo. Sei ebreo? Gli chiedo. Sì, ebreo polacco. Da quanto sei in lager? 3 anni. E leva 3 dita. Deve essere entrato bambino, penso con orrore. D'altronde, questo significa che almeno qualcuno qui può vivere. Qual è il tuo lavoro? Schlosser, risponde. Non capisco. Eisen, Feuer. Ferro, fuoco, insiste lui, e fa cenno con le mani come di chi batta col martello su di un'incudine. È un fabbro, dunque. Ich, Chemiker, dichiaro io. E lui accenna gravemente col capo. Chemiker, gut. Ma tutto questo riguarda il futuro lontano. Ciò che mi tormenta in questo momento è la sete. Bere. Acqua. Noi niente acqua, gli dico. Lui mi guarda con un viso serio, quasi severo, e scandisce. Non bere acqua, compagno. E poi altre parole che non capisco. Warum? Geschwollen. Risponde lui telegraficamente. Io crollo il capo. Non ho capito. Gonfio, mi fa capire, infiando le gote e abbozzando con le mani una mostruosa tumescenza del viso e del ventre. Warten bis heute Abend. Aspettare fino oggi sera, traduco io parola per parola. Poi mi dice, ich, Schlome, du? Gli dico il mio nome e lui mi chiede, dove tua madre? In Italia. Schlome si stupisce. Ebrea in Italia. Sì, spiego io del mio meglio. Nascosta. Nessuno conosce. Scappare, non parlare, nessuno vedere. Ha capito. Ora si alza, mi si avvicina e mi abbraccia timidamente. L'avventura è finita e mi sento pieno di una tristezza serena che è quasi gioia. Non ho più rivisto Schlome, ma non ho dimenticato il suo volto grave e mite di fanciullo che mi ha accolto sulla soglia della casa dei morti. Moltissime cose ci restano da imparare, ma molte le abbiamo già imparate. Già abbiamo una certa idea della topografia del lager. Questo nostro lager è un quadrato di circa 600 metri di lato, circondato da 2 reticolati di filo spinato, il più interno dei quali è percorso da corrente ad alta tensione. È costituito da 60 baracche in legno che qui si chiamano blocks, di cui una decina è in costruzione. A queste vanno aggiunti il corpo delle cucine, che è in muratura, una fattoria sperimentale, gestita da un distaccamento di Häftlinge privilegiati, le baracche delle docce e delle latrine, in numero di una per ogni gruppo di 6 od 8 blocks. Di più, alcuni blocks sono adibiti a scopi particolari. Innanzitutto, un gruppo di 8, all'estremità est del campo, costituisce l'infermeria e l'ambulatorio. V'è poi il block 24, che è il Kretzeblock, riservato agli scabbiosi. Il block 7, in cui nessuno comune Häftling è mai entrato, riservato alla Prominenz, cioè all'aristocrazia, agli internati che ricoprono le cariche supreme. Il block 47, riservato ai Reichsdeutsche, gli ariani tedeschi politici o criminali. Il block 49, per soli capos. Il blocco 12, una metà del quale, ad uso dei Reichsdeutsche e capos, funge da cantine, cioè da distributorio di tabacco, polvere insetticida e occasionalmente altri articoli. Il block 37, che contiene la fureria centrale e l'ufficio del lavoro. E infine, il block 29, che ha le finestre sempre chiuse, perché è il Frauenblock, il postribolo del campo, servito da ragazze Häftlinge polacche e riservato ai Reichsdeutsche.